giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Tragico incidente nella notte a Gemona, un'auto con tre giovani è finita nel canale vicino alla zona della turbina, morto un ventenne di Gemona che stava sul sedile posteriore. Sono riusciti a salvarsi il guidatore e l'amico seduto al suo fianco. A Pordenone le fiamme gialle hanno sospeso due aziende agricole per aver impiegato braccianti senza contratto. Da inizio anno sono 51 i lavoratori nero scoperti e 19 le attività sospese nel pordenonese. Sopralluogo a Palmanova dei consiglieri regionali della quinta commissione. Per loro la proiezione in anteprima anche dei contenuti multimediali Visit Palmanova. L'attrattività della montagna friulana per i giovani viene esplorata da una ricerca lanciata dall'Università di Udine, finanziata dal MIUR e dalla Regione, coinvolge diversi comuni montani. Gorizia, capitale europea della cultura, vuole essere anche il veicolo di promozione della mobilità sostenibile attraverso i treni. In quest'ottica il Comune e i vertici di Trenitalia stanno studiando le formule di promozione di Go 2025 abbinate al trasporto su rotaia. Per anni quasi dimenticato, il Museo dell'Antichità Winckelmann di Trieste nel 2023 è passato dai 10.000 visitatori ai 65.000. Buongiorno da Dario Ronzoni e Nada Cioc per questa edizione del giornale radio che apriamo con il drammatico incidente avvenuto nella notte a Gemona, in cui un'auto con a bordo tre ventenni è finita nel canale nei pressi della zona della turbina. Nell'incidente è morto il gemonese Matteo Pittana, che stava seduto dietro. Si sono salvati il guidatore e l'amico, che era seduto al lato passeggero, e sono usciti con le proprie forze dall'abitacolo cercando quindi aiuto. All'arrivo dei soccorsi per Matteo Pittana non c'era più nulla da fare. Sentiamo i dettagli nel servizio. L'auto, che invece di imboccare un ponticello, va dritta giù nell'Edra. Lo schianto contro l'argine, poi il mezzo finisce dentro il canale, piegato di lato. Non ha avuto scampo Matteo Pittana, il ventenne che viaggiava sul sedile posteriore, l'unico che non è riuscito a uscire dal mezzo. I due amici, seduti davanti, uno di Trasagis, l'altro di Osoppo, tutti classe 2003, usciti dall'abitacolo, hanno chiesto aiuto ai residenti delle case vicine. Ho sentito suonare intorno all'1:30 di notte, non ho aperto perché non sapevo chi fosse, ma ho sentito i due ragazzi che gridavano aiuto, ci dice una signora che vive nella zona. L'incidente è alla fine di via della Turbina, una strada sterrata poco frequentata che porta al canale e al fiume Tagliamento. Avvertiti dai residenti, sul posto sono arrivati i carabinieri della radiomobile di Tolmezzo e i vigili del fuoco di Gemona, le unità speleo-alpino-fluviali di Udine e un'autogru con la quale è stata recuperata l'auto dall'Edra. Il mezzo è praticamente distrutto dal forte impatto, possibile tra le cause una velocità sostenuta. Saranno le indagini a stabilire se il decesso sia stato causato dall'urto o per annegamento. La vittima aveva ancora le cinture allacciate quando l'auto è stata tirata fuori dal canale. Matteo Pittana aveva giocato a pallacanestro nella Gemona Basket fino al 2021, ma aveva poi smesso negli anni del Covid. David Londero, suo allenatore, l'aveva incontrato proprio una settimana fa. Era un ragazzo fantastico, sempre sorridente, dice. Mi aveva detto che gli sarebbe piaciuto ritornare sul perché uno di questi giorni. Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sospese due attività agricole nel Pordenonese per aver impiegato braccianti in nero. Le fiamme gialle di Pordenone e i funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro hanno scoperto in due distinti interventi 5 lavoratori in nero, tutti originari del subcontinente indiano. Per i due datori di lavoro è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività. Il primo controllo è stato effettuato nel Sacilese, dove le fiamme gialle hanno individuato un cittadino pakistano e un indiano senza contratto. Il secondo nelle tenute di un'azienda agricola di San Giorgio della Rinchinvelda, dove i controllori hanno identificato 3 cittadini bengalesi senza contratto di assunzione. Ai due datori di lavoro è stata applicata la sanzione da 1.800 a 10.800 euro, raddoppiata per il titolare dell'azienda di San Giorgio della Rinchinvelda in quanto recidivo. Dall'inizio dell'anno sono 51 i lavoratori nero scoperti dalle fiamme gialle del Friuli Occidentale, 30 i datori di lavoro sanzionati e 19 le attività sospese. Due automobilisti, uno romeno e uno kosovaro, denunciati per il reato di atto falso, erano alla guida delle proprie automobili con patenti fasulle. In particolare il kosovaro, durante un controllo della Polizia di Stato lungo la costiera triestina, ha esibito la patente di guida che, dopo un'approfondita verifica tramite il Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia di Tormaglern in Austria, ha confermato la falsità del documento. L'automobilista kosovaro è stato anche multato per le violazioni del codice della strada. Stessa procedura con la patente di guida esibita da un automobilista rumeno durante un controllo sulla A4. Il documento è risultato falso. L'uomo non ha mai avuto una patente. Il cittadino rumeno è stato dunque denunciato e sanzionato amministrativamente per le violazioni del codice della strada. L'autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre il documento falso è stato sequestrato. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Duino hanno dato esecuzione ad un mandato d'arresto europeo a carico di un cittadino rumeno di 30 anni. L'uomo si trovava a bordo di un pullman diretto verso il confine che è stato controllato a Fernetti. È risultato destinatario di un provvedimento di cattura in ordine al reato di violenza pubblico ufficiale commesso in Romania. È stato pertanto accompagnato alla casa circondariale di Trieste a disposizione del presidente della Corte d'Appello per le conseguenti procedure di estradizione. Nella serata del 12 febbraio la volante di Duino ha sanzionato amministrativamente un cittadino rumeno del 2002 perché trovato in possesso di 23 grammi di hashish. Durante i controlli di un'autovettura alla stazione di Duino Nord, gli agenti si sono insospettiti dal comportamento del giovane uomo che cercava di nascondere un astuccio in una borsa. Nell'astuccio c'era appunto lo stupefacente che è stato sequestrato. A Udine un flash mob silenzioso oggi dalle 18.30 alle 18.40 dedicato ad Alexei Navalny. La proposta dell'iniziativa, che mutua la manifestazione che si svolgerà contemporaneamente a Roma sul piazzale del Campidoglio, è partita dalla Federazione Quadrifoglio, il gruppo civico che fa riferimento al sindaco Alberto De Toni. All'invito di Federazione Quadrifoglio hanno risposto positivamente i gruppi civici e politici presenti in consiglio comunale, lista civica De Toni sindaco, lista civica Fontanini sindaco, Azione, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Identità Civica, Italia Viva, Lega FVG, Partito Democratico, Possibile, Sinistra Italiana e Spazio Udine. Durante i 10 minuti di silenzio non ci saranno simboli di partito o di liste civiche, ma sarà esposto un cartello con la scritta dal titolo "Per Navalny, per la libertà". L'obiettivo degli organizzatori è ricordare il dissidente morto in un carcere russo ed affermare il senso comune per la libertà. Diplomarsi a 18 anni anziché 19 succede in buona parte d'Europa. In Italia varie sperimentazioni ci provano da anni e anche l'ultima riforma a Val di Tara va in quella direzione, ma sono ancora poche le scuole che hanno adottato questo percorso. 5 anni di scuola superiore in 4, non una novità. In Italia se ne parla ormai da 20 anni e del resto succede in quasi tutta Europa che si esca dal percorso superiore a 18 anni. Succede in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Finlandia. In Italia alcune sperimentazioni sono già partite. Dal prossimo anno la riforma del ministro Valditara ha spinto ulteriormente in questa direzione, soprattutto per gli istituti tecnici, con la formula 4 più 2 di ITS. Su 170 scuole a livello nazionale, 3 hanno aderito in Friuli Venezia Giulia, ma all'Istituto dell'Edda Fabiani di Trieste un percorso quadriennale esiste già dal settembre del 2022 per l'indirizzo in biotecnologie sanitarie. 38 ore settimanali al posto di 32, ma soprattutto una didattica più innovativa con competenze trasversali e meno compiti a casa al pomeriggio. Si lavora molto in classe, più laboratori, più attività di gruppo. A credere in questa nuova scuola è Tiziana Napolitano, preside. Io consiglio i 4 anni perché è un percorso compattato, ma perché soprattutto è espressione della nuova didattica, della didattica innovativa, e questo è possibile grazie alle competenze dei nostri docenti, ma anche alla qualità dei laboratori che in questi anni siamo riusciti a costruire. C'è qualcuno che gradisce o desidera ulteriori informazioni, siamo ovviamente a disposizione. Questi ragazzi dopo i 4 anni che cosa ci si aspetta che facciano? Che vadano all'università? Che cosa? Il corso è nato come risposta alla pandemia, per cui è nato come diciamo propedeutico a tutte le facoltà sanitarie, prevalentemente ovviamente medicina, veterinaria, infermieristica eccetera. Ma come tutti gli altri diplomi, al termine del percorso quadriennale è possibile iscriversi tanto a qualsiasi appunto facoltà universitaria, ma anche agli ITS Academy. Anzi, a questo proposito stiamo collaborando con l'ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita di Trieste per l'organizzazione di un nuovo corso attinente che dovrebbe partire proprio in settembre. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Maniago l'ospedale di comunità e casa della comunità non verranno costruiti ex novo, ma troveranno spazio all'interno dell'ex nosocomio cittadino. L'edificio verrà adeguato alle nuove esigenze grazie ad opere che partiranno a fine estate per concludersi dopo un anno di lavori con un notevole risparmio. Lo ha assicurato l'assessore regionale alla salute Riccardi incontrando a Maniago il sindaco Umberto Scarabello, l'assessore comunale Siega Vignuti, il direttore generale di ASFO Giuseppe Toniutti e il consigliere regionale Andrea Carli. Regioni italiane sempre più in difficoltà nel garantire il LEA, i livelli essenziali di assistenza, ma il Friuli Venezia Giulia mantiene la sufficienza in tutte e tre le macro aree e si colloca al quarto posto in Italia. Friuli Venezia Giulia quarto in Italia nel garantire i LEA, i livelli essenziali di assistenza, nel 2022. E quanto emerge dai primi dati provvisori del Ministero della Salute che sono stati presentati in audizione al Senato e che registrano un peggioramento della situazione a livello nazionale. Il Friuli Venezia Giulia si colloca infatti ai piedi del podio, alle spalle di Veneto, Emilia Romagna e Toscana e davanti, fra gli altri, alla Lombardia. Ed è fra le 9 regioni che ottengono la sufficienza in tutte e 3 le macro aree, ossia prevenzione, ospedale e territorio. La situazione migliore è quella dell'area della prevenzione, la peggiore è quella del territorio, da registrare anche il diverso andamento del Friuli Venezia Giulia nelle macro aree. In quella della prevenzione infatti il trend è quello di un progressivo miglioramento dal 2017, quando la regione risultava addirittura insufficiente a oggi, mentre ospedale e territorio fanno segnare nel quinquennio un andamento oscillante e una tendenza verso il basso negli ultimi anni. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Palmanova, con le sue mura patrimonio dell'UNESCO e le opportunità di sviluppo, al centro della visita della quinta commissione consiliare. Il giro per la città fortezza della quinta commissione cultura del Consiglio regionale comincia dall'ex caserma Montezemolo, che ha ricevuto dal PNRR 30 milioni di euro, grazie ai quali diventerà riferimento nazionale per il ricovero dei beni culturali minacciati o danneggiati da calamità naturali, con annessi laboratori di restauro, galleria d'arte e sala convegni. La sfida è di trasformarla in un polo culturale utile sempre. Il cronoprogramma è serrato e ora l'ufficio tecnico del comune attende rinforzi per affiancarlo nell'iter di realizzazione del progetto, che procede di pari passo agli interventi per altri 20 milioni di euro previsti in città, spiega il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini, a capo della visita guidata dei consiglieri tra ex caserme e bastioni patrimonio dell'umanità. Suo l'invito alla commissione, all'assessore alla cultura Mario Anzil, oggi presente, col soprintendente regionale Andrea Pessina, per fare il punto degli interventi nel sito UNESCO e mostrarne le potenzialità. Oltre alla sua iconica piazza, i numeri sono da primato: 150.000 metri quadrati di antiche mura, oltre 60 strutture militari storiche, 4 chilometri di gallerie e ben 1,5 milioni di prati stabili tra spalti e spianate tutti intorno alle cinte murarie. Per la manutenzione ordinaria ogni anno la spesa per il comune è di circa 150.000 euro, fa sapere il vice sindaco Luca Piani, ricordando che la regione viene in aiuto coi fondi per i siti UNESCO, ma anche coi forestali che tengono le fortificazioni pulite dalla vegetazione. Nessun accenno durante la visita al ventilato e controverso progetto di hotspot per migranti nell'ex caserma Lago Aialmico, che appare sfumato. Il giro si è concluso nell'ex caserma napoleonica Filsi e nella nuova sala multimediale, che racconta virtualmente la fortezza ai suoi visitatori, in continua crescita. Escluse le visite giornaliere, 25.000 solo le presenze nell'ultimo anno, aumentate del 37% dal 2019. Una Palmanova, rilancia il sindaco Tellini, che ambisce a un ruolo di primo piano nel turismo culturale in Italia. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. In che modo la montagna regionale può risultare attrattiva per giovani e nuovi abitanti? L'Università di Udine ha presentato una campagna di mappature, interviste e questionari con cui gli studiosi cercheranno di comprendere in che modo i territori montani vengono vissuti e frequentati. I 6 comuni coinvolti nella ricerca sono Dogna, Clauzetto, Enemonzo, Forgaria, Malborghetto Valbruna e Preone. Ne abbiamo parlato con il professor Mauro Pascolini, che coordina la ricerca. Abbiamo deciso di indagare i giovani, quindi sia i giovani dai 25 ai 34 anni residenti in aree montane, sia gli studenti di scuole medie superiori quarta e quinta e studenti universitari e quelli che sono i nuovi abitanti in una serie di comuni campione che hanno scelto di vivere in montagna negli ultimi 5 anni. E come sarà fatta questa ricerca? Che modalità seguirà? L'obiettivo è di intervistare tutti i giovani dai 25 ai 34 anni con interviste in profondità, cioè quindi con colloqui individuali in maniera di indagare a fondo quelle che sono le motivazioni, le aspettative, il rapporto con i luoghi, il rapporto con la comunità di riferimento. E la stessa tecnica viene utilizzata per i nuovi abitanti, mentre per gli studenti delle quarte e quinte superiori e per gli studenti universitari utilizzeremo un questionario tradizionale con una serie di domande chiuse, qualcuna aperta, per avere un campione molto più ampio. Cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo innanzitutto di verificare alcuni degli stereotipi che ci sono attorno alla montagna, quindi che in montagna non si può fare innovazione, è difficile fare impresa, molte volte marginale, e noi crediamo invece che sia un luogo formidabile di innovazione e di possibilità. Secondo, di capire come fidelizzare il grande interesse che è stato rivolto alla montagna dopo la pandemia e durante la pandemia. Terzo, sostenere e dare indicazioni ai decisori riguardo le politiche di sviluppo per la montagna. E sulla montagna sostenibile proseguono a Pordenone gli incontri Revolution Green promossi dal Teatro Verdi e dal CAI. Ospiti dell'appuntamento alle 18.30 la docente di fisica del clima all'Università di Torino Elisa Palazzi e la scrittrice Sara Segantin. Go 2025 è un'opportunità per la promozione della mobilità sostenibile. In questa chiave il sindaco di Gorizia Ziberna ha presentato ai vertici di Trenitalia, la capitale europea della cultura, accompagnato dall'avvocato Caterina Belletti, componente del CDA di Trenitalia. Il primo cittadino ha incontrato il presidente Stefano Cuzzilla, l'amministratore delegato Luigi Corradi e la componente del CDA Federica Zannella. La sostenibilità sociale, l'abbattimento dell'inquinamento derivante dall'uso della rotaia al posto della gomma sono stati argomenti centrali, perché ambiente e sostenibilità sono centrali in Go 2025, racconta il sindaco. Tra gli argomenti affrontati, l'importanza della promozione. Diverse sono state le proposte formulate in merito, che verranno poi concretizzate da una cabina di regia tra Comune, Trenitalia e Regione. Il sindaco, confrontandosi con i dirigenti di RFI, ha posto l'accento anche sui lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria e del piazzale antistante, che dovranno essere ultimati entro l'anno. Il Museo delle Antichità Winckelmann di Trieste si trova di fronte alla Cattedrale di San Giusto, eppure la sua raccolta importante dell'Antico Egitto, una collezione dell'arte maya, sono per anni rimasti fuori dalle destinazioni dei visitatori, che ora stanno scoprendo i tesori di questa perla di Trieste. Il servizio. Nell'ultimo anno ha visto aumentare in modo esponenziale le visite, da 10.000 a 65.000 all'anno. È il Museo Civico d'Antichità Winckelmann, da 200 anni in piazza della Cattedrale a Trieste. Pochi i visitatori triestini, per la maggior parte si tratta di scolaresche che arrivano dal resto della regione o di turisti. Due le nature di questo museo, quella archeologica e quella delle collezioni private, che sono state donate al museo, come la collezione egizia, un migliaio di pezzi arrivati qui nell'Ottocento e nel primo Novecento grazie all'intenso traffico mercantile con Alessandria. Marzia Vidulli, curatrice del Museo delle Antichità Winckelmann. Chi viene in questo museo viene abbracciato da questa civiltà, e soprattutto con le scuole si ha l'occasione di vedere le mummie. Ne abbiamo 3 di mummie umane, ci sono le mummie degli animali, ci sono i sarcofagi di legno dipinto, i sarcofagi in pietra, quello grande in granito, ma poi ci sono tutti gli altri oggetti del corredo, come i vasi canopi che sono alle nostre spalle, e tutti gli oggetti che raffigurano le divinità, oppure i papiri che accompagnavano il defunto. Non solo Antico Egitto, ma anche le tracce dell'epoca romana di Trieste e molto altro. Il museo si sviluppa su 3 piani. Un piano è dedicato alla preistoria e protostoria del territorio di Trieste, di parte dell'Istria e dell'Isontino, ma le altre sale espongono collezioni, questa egizia, quella dei vasi greci, dei materiali che vengono da Taranto, e c'è addirittura una piccola sezione che viene da El Salvador, di cultura maya. Il museo è aperto a ingresso gratuito da martedì a domenica dalle 10 alle 17. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al meteo, nuvolosità variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 10 gradi, Gorizia 11, Udine 11 gradi e 5 decimi, Pordenone 12 gradi e 5 decimi, Sappada 4 gradi, Tarvisio 7, Piancavallo 9, Forni di Sopra 9 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 12 gradi, Montelussari 3 gradi, Zoncolan 6 gradi, Grado 11, Lignano 14 gradi e 5 decimi. Le previsioni per oggi pomeriggio: cielo in genere variabile, non esclusa qualche debole precipitazione locale, specie in montagna sulla fascia orientale, anche nella forma di breve rovescio. In serata possibili foschie dense o nebbie su bassa pianura e area lagunare. Torna a Cinema Zero a Pordenone il documentario Il coraggio della libertà, 70 anni di generazioni consapevoli, di Alessandro Pasian e Francesco Guazzoni, sulla storia dei diritti civili in Italia. La mattinata era dedicata alle scuole. Fanno domande, sono incuriositi, ma ammettono su affettività e sessualità, si sentono poco informati. Ragazze e ragazzi delle scuole superiori di Pordenone che in mattinata a Cinema Zero hanno assistito alla proiezione del documentario Il coraggio della libertà, 70 anni di generazioni consapevoli, prodotto da AIED, la storica associazione italiana per l'educazione demografica, scritto e diretto dai registi Alessandro Pasian e Francesco Guazzoni, che in 90 minuti di interviste, testimonianza, immagini d'archivio, racconta 70 anni di battaglie per i diritti civili dell'associazione presieduta da Mario Pujatti. L'Italia è uno dei pochissimi paesi dell'Europa occidentale dove l'educazione alla sessualità, all'affettività nelle scuole non esiste, non è materia scolastica. L'unica fonte di informazione che i ragazzi hanno è il cellulare. A 10 anni si vedono i porno, pensano di saper tutto. In realtà sanno meno di quello che sapevano le loro mamme e forse anche le loro nonne alla loro età. Che cosa le piacerebbe che restasse a questi giovani dell'esperienza di AIED? Il coraggio della libertà, ossia la cosa peggiore, io ho sempre detto, che esiste è la paura di aver coraggio. Replica per tutti questa sera alle 21. Proseguono intanto nel piazzale antistante i lavori per la realizzazione di una sala polifunzionale esterna. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E apriamo la pagina sportiva con una notizia di atletica. Giada Cabai agli indoor di Ancona, la pesista classe 2005 dell'atletica Malignani Libertas Udine ha vinto l'argento assoluto frantumando il precedente record personale. Il suo 15.08 attuale vale anche il minimo per il campionato mondiale Under 20 di Lima ad agosto. Calcio, un punto in classifica all'Udinese l'ha guadagnato pareggiando contro il Cagliari, ma rimane l'amara consapevolezza che si poteva osare di più e conquistare 3 punti. Il servizio. Con le ultime 5 della classifica per l'Udinese di Cioffi, 3 punti in altrettante gare. Cagliari, Sassuolo e Verona, in totale 6 punti in 6 partite dall'inizio del campionato. Con le prime 5 della classifica, invece, sotto la gestione del tecnico fiorentino, 10 punti in 7 partite. I successi su Milan, Bologna e Juventus, senza prendere gol, le evidenze di una squadra che brilla con le grandi e fa fatica con le piccole. Contro il Cagliari, l'Udinese domina per 44 minuti fino al gol di Gaetano, che toglie energia durante l'intervallo, come sottolinea Cioffi. La traversa di Lapadula, a inizio ripresa, aggiunge paura al gioco dei bianconeri. Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese. Ci ha spento l'entusiasmo e questo è inaccettabile, ma è comprensibile. Siamo entrati con 2 o 3 giocatori a cui ballava un attimino la linguetta. È un percorso di crescita e, come ho sempre detto, è una maratona. Le maratone le vince chi è concentrato, chi è attento, chi crede nel lavoro, chi continua a soffrire e che non ascolta, va avanti e corre. Neuen Perez, difensore dell'Udinese. Secondo me il secondo tempo ha mancato quella personalità di prendere la palla, no? Per creare il gioco e fare quello che abbiamo fatto al primo tempo. Le sostituzioni dei laterali con gli ingressi di Ebosele e Ferreira non restituiscono l'intensità del primo tempo e alla fine il pareggio, il 14esimo, diventa la via più comoda per tenere la zona retrocessione distante 3 punti in vista della trasferta di sabato a Marassi con il Genoa. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questo è tutto per questa edizione del giornale radio, redatta e condotta da Dario Ronzoni e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Samantha Gonda. Tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.